Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Con quella di questa sera approdiamo alla puntata numero 304 del Soundcheck di Radio 24. A tutti voi buonasera da Gegè Telesforo, dal Groove Mastery Studio, e buonasera alla mia compagna di avventure musicali qui su Radio 24, Silvia Barba. Buonasera a tutti, ma soprattutto tanti auguri a tutti i papà, nonché a te, visto che oggi è la festa del papà. Grazie, sei molto gentile. E io, per non smentirmi, volendo sempre mischiare le carte, non ho invitato un papà questa sera come ospite del Soundcheck, bensì una formidabile mamma molto attiva nell'ambiente musicale romano, tant'è vero che la incontriamo molto spesso girando per club e spettacoli in localini, grandi teatri. La vediamo molto spesso in azione, e vi sto parlando della nostra amica Cristiana Piraino, che nella vita fa la social media manager e gestisce un sito molto importante per chi fa attività di intrattenimento a Roma, che è romalive.biz, dove potrete trovare tutte le informazioni che riguardano gli spettacoli e soprattutto la buona musica nella nostra capitale. Cristiana Piraino, buonasera e benvenuta al Soundcheck. Buonasera, ciao a tutti, Gegè, ciao Silvia, ciao. Grazie di avermi invitato. Ecco, figurati, sono io che ti ringrazio, perché hai fatto molto felice il mio papà qualche settimana fa, visto che hai pubblicato nel tuo blog un articolo con il quale elogiavi in qualche modo il nostro programma, dal quale vai a carpire anche tu alcuni suggerimenti, facendoti bella con i colleghi musicisti, proponendo delle novità discografiche. Esatto, lo ammetto, io sono una grande fan del vostro programma, e poi comunque utilizzo le informazioni anche per il mio lavoro, ma soprattutto anche per il mio piacere, diciamo, perché imparo, posso dire che imparo da te ascoltando il tuo programma. Ma grazie, sei molto gentile. Io intanto vorrei imparare da te una cosa: come fai a gestire il tuo lavoro, soprattutto l'attività notturna che ti porta in giro per concerti, con 4 figli? Ecco, non è difficilissimo. No. Ci sono persone che mi aiutano, a parte, vabbè, la mia mamma, ciao mamma, ma soprattutto la babysitter, che ci dà una grande mano. Insomma, io do lavoro avendo 4 figli, e poi devo dire la verità che il mio lavoro di social media manager, che è un lavoro che si sviluppa completamente, si fa in mobilità, cioè ovunque, quindi soprattutto anche a casa, mi dà la possibilità di essere anche una mamma a tempo pieno, quindi non ho tantissimi di questi problemi. Dicevi si fa in mobilità. In mobilità, sì. Nel senso che utilizzi smartphone, sì. Tablet. Esatto, questo concetto di lavorare in mobilità è stato introdotto qualche anno fa come concetto, e significa proprio questo: lavorare ovunque attraverso gli smartphone e i tablet. Bene, noi perché abbiamo invitato Cristiana Piraino? Perché proprio ormai da qualche settimana parliamo di comunicazione che riguarda certamente la musica, ma l'arte in genere, visto che in televisione di musica se ne vede molto poca, a parte i periodi quando sono in onda programmi, talent show e cose di questo tipo, però di musica in TV se ne vede poca. In radio si sente sempre la solita musica, non ci resta che avere un approccio diretto e sano con questo mezzo, con internet, che ci permette di poter comunicare tutte le informazioni che riguardano la nostra musica e i nostri artisti preferiti in maniera sana ma anche coraggiosa. Allora, quello che tu fai, Cristiana, è proprio utilizzare internet e la rete per comunicare. Esattamente che cosa fai? Come funziona il tuo lavoro? Beh, il mio lavoro è appunto di social media. Facciamo solo un preambolo, perché poi sviluppiamo il concept. È un lavoro di promozione, certamente, della musica o dei musicisti, ad esempio, degli eventi, delle rassegne, attraverso i social media fondamentalmente, quindi quelli che sono i principali canali social media che voglio brevemente elencare: Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus, Vimeo a seconda della, e poi ci sono tantissimi altri, ovviamente SoundCloud, insomma l'elenco Bandcamp, è lungo, assolutamente Instagram, sì. No? Instagram, esatto, ci sono i social media visual e ci sono che, come Instagram. Allora Silvia, fermiamoci qui con Cristiana, abbiamo fatto l'elenco perché poi ogni social media network ha le sue modalità, giusto? C'è un codice per comunicare in ogni social media, è vero. Ecco, quindi prendete carta e penna oppure pronti sul vostro tablet a prendere nozioni di come si promuove oggi la musica nell'era 2.0. Che stupidata. Forse siamo anche in quella 3.0. 3.0. Sicuramente nell'era 3.0 c'è un artista che a noi piace tanto, mia cara Cristiana, che è la signora Erika Badu, che ultimamente sembra quasi affascinata dal mondo dello smartphone, del telefonino e dal trillo del telefono. Ha realizzato gli ultimi brani, che sono tutti molto particolari, con sonorità tipiche di Erika Badu nella fase 3.0, come dicevi tu, però tutti brani che in qualche modo sono legati dall'utilizzo del telefono. Si può dire che è un concept album, perché anche tutti i titoli e tutti, appunto, tutti i brani di questo mixtape si riferiscono al telefono. Ecco, il primo brano è Thrill Friends e lei, Erika Badu, al soundcheck di Radio 24. Homeboys. Eh sì, questa è l'operazione discografica di oggi di Erika Badu, Thrill Friends al soundcheck di Radio 24 con Silvia Barba, particolarmente affascinata dalla voce ma anche dalla mentalità di questa grandissima artista americana. È vero, perché Erika Badu ultimamente, soprattutto in questo mixtape ma anche in questa operazione di questo brano, ha fatto qualcosa di molto particolare, perché un giorno ha annunciato che su SoundCloud avrebbe pubblicato questo brano, che in realtà si rifà un po' alla versione originale di Kanye West. Lei ha preso il beat del brano Real Friends di Kanye West e ci ha messo sopra le parole di Friends, che era invece un brano del 1984 di un gruppo che si chiama Houdini. Lei in un giorno dove era in studio ha fatto un po' quello che fece con Hotline Bling, ti ricordi, della versione di Drake, insomma, e poi l'ha pubblicato su SoundCloud. Quindi ecco, lei si rifà molto ai social media. Ecco, quindi oggi che parliamo di come comunicare attraverso i social media, perché approfittiamo della presenza in studio di Cristiana Piraino, che è un'esperta come social media manager, anche Erika Badu, che è sotto contratto con una multinazionale, per un certo tipo di operazione preferisce utilizzare SoundCloud o Bandcamp. Allora, Cristiana, prima di parlare del tuo lavoro e di come possiamo promuovere oggi la nostra attività, direi di ascoltare ancora un pezzettino di Erika Badu. Ti piace Erika Badu? Moltissimo. L'hai vista dal vivo qualche volta? No, purtroppo ancora no, ma sto aspettando il momento. Beh, però la seguo dall'inizio, da sempre. Sono veramente innamorata e affascinata, anche perché è veramente E quando hai a che fare con artisti così diventa facile comunicare qualsiasi cosa, sì, giusto? Sì. Allora, Silvia, che cosa vogliamo ascoltare di Erika Badu? Io direi di proporre questo brano che è What's Your Phone Number? Giusto? Sono d'accordo. What's your phone number? Qual è il tuo numero di telefono? Se poi lo chiede Erika Badu, io glielo do. Soundcheck. Il suono della musica. Woke up and realized I was free to be anything. If it wasn't integrity with what I dreamed, I knew it couldn't be wrong and it would be done. I was born to be Earth Song, and I feel like I'm running, not away, but to take off and fly, using this life as a runaway. I feel like I'm running, not away, but to take off and fly, using this life as a runaway. Gone to sleep in other worlds I've seen, when my thoughts turn into things magical and tangible. And oh my, how fresh we would be if we took our dreams seriously. 'Cause I feel like I'm running, not away, but to take off and fly. in this life as a runaway. I feel like I'm running, not away, but to take off and fly. He's in this life as a runaway. Voce che graffia, quella di Georgia Nee Muldrow con Runaway qui al Soundcheck di Radio 24, puntata dedicata alla comunicazione digitale per la presenza della nostra amica Cristiana Piraino, che è un'esperta del settore. Hai mai sentito Georgia Nee Muldrow, mia cara Cristiana? Sì, avevo già sentito qualcosa, però sicuramente approfondirò. Ecco, dovrei approfondire, anzi ci racconta qualcosa la nostra Silvia Barba, che credo l'abbia anche incontrata a New York un po' di tempo fa. Me l'ha fatta conoscere un amico in comune che abbiamo, che è Justin Brown, facendomi ascoltare proprio questo disco qua, perché questo è un disco del 2009 che però lei aveva registrato 7 anni prima, quando aveva appena 17 anni. Adesso è molto addentrata nel rap, fa della musica un po' più, diciamo, come dire, io la definisco più tosta. Invece questo è un brano delizioso, perché nel frattempo si è sposata con un altro rapper che si chiama Dudley Perkins, che oggi si fa chiamare D-Claim, e hanno fondato una etichetta discografica. Lei è californiana, quindi, come dire, Los Angeles ancora una volta sforna questi talenti, ed è davvero molto considerata perché Mos Def ha definito la sua musica incredibile. Riesce a missare delle influenze jazz in maniera molto singolare, e poi, voglio dire, ha un modo particolare di scrivere, e quindi di rappare, di cantare e di suonare. Ecco, Cristiana, tu che sei un'esperta, che voto daresti a questa comunicazione artistica da parte della nostra Silvia? Ma come minimo un 10 e lode. 10 e lode. Sì. Allora, è perfetta, proprio mi sta sul pezzo. Sta sul pezzo la nostra Silvia Barba, stiamo sul pezzo anche noi. Allora, Cristiana Piraino, esperta di social media, è una manager di social media e lavora naturalmente con la musica per comunicare gli eventi e magari anche il talento di alcuni artisti. Allora, direi di analizzare prima di tutto i vari social media. Sì. Qual è quello più importante secondo te? Il primo che tu sfrutti per promuovere un evento, magari il concerto all'auditorium di Silvia Barba? Spero che ti porti bene questo. Speriamo. Beh, sicuramente il primo in assoluto è e rimane Facebook. Innanzitutto per un dato importante, che è il numero degli utenti connessi contemporaneamente, e per la durata di permanenza sulla piattaforma stessa, che sfiora insomma una media dei 20 minuti, contro dati recenti, non di oggi diciamo, però recenti, per esempio di Google Plus, che la permanenza invece non supera i 2 minuti. Quindi capiamo anche che è effettivamente un luogo, è diventato un luogo dove si comunica e ci si scambiano opinioni e fatti e informazioni. Io credo di averlo detto qualche settimana fa, no? Perché ho notato che Facebook funziona molto con la comunicazione stupida, fra virgolette. Cioè, se comunichi il grande evento o un concerto da fare in un grande teatro, che può essere la Carnegie Hall anche a New York, e poi invece posti una fotografia dove mangi un bellissimo piatto di spaghetti, certamente la fotografia con gli spaghetti funziona di più. Dipende. Come mai? No, dipende, nel senso che come nel mondo reale ci sono diversi livelli di comunicazione, insomma ci sono persone che parlano di diversi argomenti. Facebook ti dà la possibilità di inserirti nelle conversazioni di un certo livello, del livello che tu vuoi. È chiaro che il piatto di spaghetti è un qualcosa che condividiamo tutti, dal re al bambino, tutti sono appassionati della pasta asciutta, diciamo. Sì. Quindi, però poi se dobbiamo andare a cercare il pubblico che è interessato a un concerto jazzistico, allora andremo a fare determinate ricerche all'interno di Facebook con i tag e con delle parole chiave che servono proprio a riportare le persone su quel discorso. Questo fondamentalmente funziona, fare un piccolo investimento su Facebook acquistando spazi pubblicitari? Funziona, non direi acquistando spazi pubblicitari, non è la definizione giusta. Diciamo che Facebook ti aiuta a metterti in contatto con gli utenti che sono veramente interessati. C'è anche un'etica comunque con la quale utilizzare Facebook, no? Molto spesso io mi ritrovo inserito in gruppi dei quali non voglio far parte, quindi con comunicazioni terribili, e poi anche alcune persone invadenti che comunicano le loro attività sulla mia pagina, e quindi certamente io certamente sono andato ad escludere, no, perché poi puoi entrare nelle impostazioni di Facebook e quindi evitare gli intrusi nella tua pagina. Però insomma, sì, credo che un'etica ci debba assolutamente anche, sì, si chiama Netiquette, esiste, è scritta nero su bianco ed è un qualcosa che noi social media manager conosciamo molto bene. Comunque tutte le persone che fanno rete la conoscono bene. Lo spam purtroppo è un comportamento maleducato, diciamo, è esattamente la stessa cosa che andare a casa di tutti e citofonare o col megafono mettersi sotto casa, è maleducazione, no? Maleducazione invece è molto educata musicalmente, Georgia Nimaldru che ritorna con Break You Down. Soundcheck. Il suono della musica. Besides surfing, what do you think about? Love, for instance? I don't think about it, I make it. Eh sì, lo abbiamo scovato ormai qualche mese fa. Anderson .Paak, il nuovo album si intitola Malibu, lui californiano al 100%, con la partecipazione di The Game e Sonia Elise in questo brano affascinante intitolato Room in Here, con questa bellissima campionatura. Insomma, il sound tipico della California si sta facendo notare. In alcuni momenti lo preferisco anche a quello newyorkese, che sembra un po' duro e ostico a volte, però sempre affascinante. Bene, questo è il Soundcheck di Radio 24, Giorgia Telesforo e Silvia Barba. Intratteniamo piacevolmente la nostra Cristiana Piraino, che ci sta dando delle nozioni importanti su come utilizzare i social media per comunicare fatti più o meno importanti riguardanti musica. Allora, mia cara Cristiana, abbiamo analizzato in qualche modo Facebook. Sei stata formidabile, in due minuti ci hai spiegato come utilizzare Facebook, però c'è un altro social media che forse è quello preferito dagli artisti americani, che è Twitter. Non li vedo molto attivi sulle loro pagine di Facebook, però su Twitter c'è un movimento spaventoso di piccole notizie, informazioni, fotografie fatte su Instagram e così via. Sì, il cosiddetto microblogging, insomma. Scrivi Silvia? Prendo appunti. Sì, insomma, Twitter è diventata la voce di tantissimi musicisti, ma perché un po' in Italia sta accadendo sempre di più, però in America, che sono un po' più avanti, loro lo utilizzano proprio in modo personale. È uno strumento che ogni musicista ha in tasca e lo utilizza per mettersi in relazione sia con il settore sia con il suo pubblico, ma in modo molto diretto anche molto efficace, perché ha la possibilità di esprimere un'opinione definitiva, ufficiale, completa, dalla sua proprio stessa, non dico voce, ma tastiera. Quindi dovendo utilizzare Facebook e Twitter, vanno utilizzati in maniera completamente differente. Sì. Serve per promuovere anche un evento, no? Il primo, Facebook, comunque gli americani non fanno assolutamente a meno di Facebook, anzi lo usano moltissimo, però la differenza rispetto all'Italia è che il musicista sta anche su Twitter, invece in Italia quasi no. Almeno vedo nel jazz, che io seguo moltissimo, è molto difficile che un musicista del jazz si trovi su Twitter. Anche i più famosi comunque lo lasciano spesso così un po' andare o di rimando, diciamo. Direttamente da Facebook arrivano dei tweet che però non sono direttamente inseriti su Twitter. A me diverte molto Twitter, anzi da un po' di tempo twittiamo le nostre scalette, e questa cosa ci sta portando anche un pubblico pubblico internazionale, perché poi gli artisti presenti in scaletta twittano, ritwittano a loro volta, e quindi abbiamo creato anche una rete internazionale di seguaci del nostro soundcheck. Ogni tanto ritwitto anche le tue comunicazioni, mia cara Cristiana, quando hai qualcosa di importante e di bello da promuovere, io ritwitto senza problemi. Beh, c'è una differenza poi con Twitter, perché tra Twitter e Facebook, che su Twitter bisogna essere assolutamente essenziali, sono 140 caratteri, sì, e quindi si usa una comunicazione anche più veloce. Su Facebook puoi mettere un post, scrivere un papier di roba, allegare delle foto, allegare dei video, e quindi interagire in maniera anche più non solo univoca, ma c'è un rimando continuo di persone che possono commentare, e il commento a volte è molto molto lungo, cosa che su Twitter non può essere. Qual è il taglio quindi che dobbiamo dare per una comunicazione efficace? Per il programma? Per il programma, dovendo promuovere qualcosa, lei ha detto bisogna essere stringati su Twitter, però forse anche su Facebook ci sono, sì, ogni tanto qualcuno pubblica dei papiri enormi, neanche no, li legge. Assolutamente no, mi raccomando, non oltre la seconda riga. Siamo proprio estremi. Sì. Invece noi qui al Soundcheck Radio 24 cerchiamo di raccontare quasi tutto degli artisti. Esatto, noi cerchiamo, perché questa è una trasmissione che ha un altro codice rispetto ai social media. Va bene, Silvia, allora andiamo a Tom Misch, che è uno dei tuoi preferiti, giovane, carino, bravo chitarrista, se la fa con molti artisti della nuova generazione, e fra questi ha anche incontrato la bella voce di Carmody, secondo me c'è anche qualcosa di più con questa ragazza, e il brano infatti si intitola Easy Love. Questo è il Soundcheck, ci risentiamo dopo l'informazione di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24 dal Groove Master Studio, con nostra ospite Cristiana Piraino, che ci sta illustrando le modalità per poter affrontare i social media e quindi la comunicazione dei nostri artisti della nostra musica preferita. Abbiamo analizzato in qualche modo Facebook, strumento utilizzato anche dagli artisti americani, ma non come Twitter. Gli americani utilizzano molto Twitter, gli artisti italiani lo stanno scoprendo, certamente Twitter però, mia cara Cristiana, dopo, forse sei in Italia chi ha dato un input molto forte a Twitter? Il mio amico Fiorello, che lo utilizza, sì, tantissimo, ma lo ha fatto scoprire, ahimè, anche ai politici. Come dico io, Fiorello ha sdoganato Twitter in Italia. Sdoganato ha Twitter. Sdoganato Twitter in quella famosa trasmissione dove anche tu hai improvvisato uno scat, sì, meraviglioso. Sì, anni fa, anni mi fa. Chiamò nel programma, sì, nel che pubblico. Faceva il lunedì, sì, no? Il famoso lunedì di Fiorello. Sì, quel programma lì ha sdoganato, con Fiorello ha sdoganato Twitter, e come dici tu lo utilizzano moltissimo anche in politica, i politici praticamente twittano in continuazione, e scatenando la rete ovviamente, perché vanno a toccare dei nervi scoperti della rete, del pubblico, delle persone, perché si parla di società. Beh, ma sono abilissimi nel fare questo. Sono abilissimi, ovviamente hanno dei social media manager abilissimi, sicuramente. Sì. E poi con Twitter, avendo soltanto 140 caratteri a disposizione, devono essere diretti. Devono essere quindi diretti, se ti devono mandare a quel paese lo fanno. Si fa tranquillamente, e questo solitamente genera un traffico grandissimo, appunto, di tweet e retweet tra pubblico, rete, altri colleghi politici che si rimandano e botta e risposta, e va avanti per tanto tempo. Questo, insomma, è una campagna elettorale continua e quotidiana, devo dire, perché tutti i giorni c'è qualcosa a cui potersi riferire, perché magari delle persone non sanno quotidianamente cosa fanno in aula, loro escono spesso anche dentro l'aula mentre discutono di cose molto importanti, loro riescono a twittare appunto in 140 caratteri notizie che poi generano discussioni anche molto più lunghe. Certo. Però cos'è che non ti piace di questo mezzo? A parte questa cosa. Dai, ci sono tante cose nei contenuti. A volte vengono twittate cose veramente così inutili o comunque non interessanti. E la cosa che non mi piace proprio è quando vengono attaccati gli artisti. Questa è una cosa che vivo continuamente, proprio perché lavoro con tanti artisti, e questa maniera di offendere a priori perché un artista non ti piace, secondo me è un modo che andrebbe veramente veramente cambiato, non ci dovrebbe più essere, non è giusto, insomma. La nostra artista Rebecca Garton, che sta per arrivare qui su Radio 24, direbbe, anzi ce lo dice chiaramente con questa sua composizione Same Old Shit qui a Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Chasing memories. Figlia d'arte anche lei. Beh, figlia d'arte, viene da una famiglia ormai pluridecorata. Il papà è Bobby McFerrin, il fratello è Taylor McFerrin e lei si chiama Madison McFerrin, il brano intitolato The Chase che troverete in questa pubblicazione per ora rintracciabile soltanto in rete. Io trovo questo album di Madison McFerrin molto interessante, viene fuori questa sua vocalità leggera ma precisa. Naturalmente è una ragazza che sta studiando musica e sta studiando al Berklee College of Music lì a Boston, amica e collega di Joanna Theaters, hanno praticamente fatto gli studi insieme, che a te piace tanto, tantissimo, mia cara Cristiana, che è la vocalist dei Mezzatta e Drew of the Drew. Madison McFerrin fa la sua apparizione per la prima volta al Soundcheck di Radio 24 con Silvia Barba e Cristiana Piraino, esperta di media, social network e comunicazione multimediale 3.0. Ho detto tutto? Sì, più o meno. Ho detto più o meno tutto. Allora, abbiamo parlato di Facebook, abbiamo parlato di Twitter. Io direi di analizzare qualche altro social network interessante, soprattutto per i giovani artisti, perché quando tu hai un contratto con una multinazionale e una casa discografica accreditata e importante, le cose vanno da sé, neanche ti devi interessare di quello che che faranno per la promozione. Tu dici di sì, no, bisogna sempre seguire il proprio lavoro, però se poi lo devi fare personalmente, che cosa consiglia ai più giovani? Allora, oggi, insomma, ora vi voglio parlare del mio preferito, aspettavo, che è Instagram. Io non lo utilizzo per niente, Instagram. È il mio preferito in assoluto. Io tantissimo, e Cristiana lo sa. Sì. Ma perché? Per le fotografie? Ci tagghiamo sempre. Allora, voglio dire una cosa, ascoltate bene, Instagram, cioè vuol dire un'immagine di qualcosa che sta accadendo, quindi questo lo dico perché tantissimi artisti mettono cose di 6 mesi prima, 2 giorni no, dopo. Quelle cose non funzionano, quindi prendi nota. Deve essere proprio... È inutile mettere le fotografie di Doc per dire, no? O comunque, potete mettere una cosa vecchia, ma citate che è uno scatto di qualche giorno prima, insomma. Bisogna essere sempre sinceri sui social media, questa è una cosa fondamentale, la sincerità. Non si può bleffare. Non si deve bleffare, perché è inutile, è sciocco, perché comunque le comunicazioni poi circolano, quindi ti dai la zappa sui piedi, insomma. Ho capito, ma come si utilizza Instagram? Allora, Instagram... Cioè, da artista, io che cosa devo comunicare su Instagram? Non è che mi posso fare la fotografia banale... Allora, insomma, per promuovere un evento, un concerto, come lo utilizzo Instagram? Beh, bisogna avere innanzitutto un rapporto, diciamo, naturale con lo strumento, quindi fare un qualcosa che ti senti di fare in quel momento. Se tu stai facendo le prove di uno spettacolo e ti va di condividere, perché sai, con i tuoi musicisti, ti fai uno scatto anche semplice e lo puoi dire, semplicemente, con molta naturalità. Naturalezza, non bisogna essere impostati o studiare chissà che cosa. Molto molto naturale, molto istintivo, diciamo anche. Quindi è il tuo preferito? Beh, il mio preferito, perché le relazioni sono veramente spazi a 360 gradi su tutto, le immagini parlano e il collegamento è molto facile. Taggarsi e collegarsi con tutti quanti è facilissimo. Pensa che io ho trovato una su Twitter, siccome seguo alcuni artisti e seguo anche una delle mie cantanti preferite, che è Jill Scott. Jill Scott aveva postato una fotografia fatta su Instagram insieme alla sua collega Lala Hathaway. E dove sono favolose tutte e due. Jill Scott ha questi capelli afro meravigliosi e tutte e due sono molto dotate da un punto di vista fisico, no? Sono abbondanti. Hanno un bel décolleté. Bello, cioè siamo quasi a livelli esagerati. E quindi ho preso questa fotografia e l'ho postata poi su Facebook. La cosa bella è che molti amici di Facebook hanno pensato che lo scatto lo avessi fatto io. Io però non ho detto bugie, ho fatto questa fotografia, ho detto uno scatto appena fatto, perché l'avevano fatto da poco le due cantanti. Beh, ha avuto un successo clamoroso. quindi mi sa che devo utilizzare Instagram anch'io un po'. Beh sì, verrò a ripetizione a casa tua, Cristiana. Guarda, quando vuoi. Bene, allora Madison McFerrin, abbiamo qualche informazione in più per Madison McFerrin? No, solo che vogliamo conoscerla, è vero? Allora, vogliamo conoscerla e allora lo facciamo subito. Il brano si intitola Make Me, Make Me. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Eccolo il nuovo Prince, il principe di Minneapolis, che torna con Extra Lovable qui al Soundcheck di Radio 24. Alcuni anni fa Prince ebbe la bella idea di non pubblicare la sua musica con multinazionali o etichette, quindi di stampare il disco fisicamente, ma è stato uno dei primi a utilizzare per la distribuzione della sua musica la rete e quindi internet. Adesso invece non utilizza proprio social media. Perché, Cristiana, secondo te qual è il concept di Prince per la comunicazione del suo lavoro? Questa è una cosa che è stata analizzata tante volte. Insomma, lui è completamente assente, non ci vuole essere, non vuole che la sua musica venga messa su nessun tipo di social network. È una scelta forse probabilmente dettata dal fatto che è un indipendente come produzione, ormai è lui, e quindi preferisce vendere la sua musica in modo fisico. Sì, non lo so, forse si disperde un po' la comunicazione utilizzando tanti mezzi diversi, forse lui preferisce concentrarla su altre modalità. Preferisce ancora la distribuzione fisica, comunque preferisce essere cercato evidentemente solo dove, ma non ha neanche, se almeno che non sia una cosa dell'ultima ora, non ha neanche un sito web, non ha praticamente nulla di in rete, non esiste, insomma è completamente un blackout completo, che però è degno di nota se ci pensiamo. Funziona? Ma secondo me sì, secondo me nel suo caso sì, perché la sua musica è comunque di qualità, è sempre stata di qualità e lo è. Io ho notato che i giovani artisti italiani ancora non hanno capito quanto possono essere importanti due siti di riferimento come SoundCloud e Bandcamp. Continuano a ricercare etichette e case discografiche perché pensano che il disco fisico, il CD fisico, sia ancora l'unico strumento. Invece le cose stanno cambiando. Anche noi qui al Soundcheck utilizziamo moltissimo SoundCloud e Bandcamp per andarci a cercare le nuove sonorità e quindi proporre nomi nuovi che difficilmente approderebbero alle multinazionali. Il tuo è un approccio, il vostro è un approccio giustissimo, perché è giusto che sia così. La musica, secondo me, quella più importante oggi si trova lì, in questa sorta di nicchia digitale tra virgolette, però è lì, è vero. E io sono veramente anni che sto cercando di dire a tutti basta questa fissazione di fare il disco fisico, create delle cose in digitale, è molto più veloce ed è sicuramente più il ritorno è maggiore, assolutamente, come avere la possibilità di avere quei, non so, nel jazz si fanno mediamente 2000 dischi, ok, hai 2000 potenziali persone che ti ascolteranno su SoundCloud, uncountable. Sì, e poi sei completamente autonomo, nel senso che se sei preso da un'urgenza creativa e realizzi la tua musica a casa col tuo computer, i tuoi strumenti, poi la puoi pubblicare immediatamente e avere un riscontro immediato, scusate. Sì. Però io ho una domanda provocatoria adesso, Cristiana. Se un artista nuovo, giovane o comunque pratico dei social media riesce da solo a promuovere la sua musica, a metterla appunto su queste piattaforme, ad avere un account Instagram, a pubblicare delle fotografie, dei post, eccetera, tu e il tuo staff, il tuo ruolo di social media manager, cosa fa, cosa dovrebbe fare in più rispetto a quello che si può fare autonomamente, che ogni artista potrebbe fare da casa sua con il suo computer e il suo smartphone? Innanzitutto guidarlo, questa è una cosa fondamentale, ma noi lo facciamo tantissimo, io e i miei colleghi siamo al loro fianco, proprio perché, ripeto, il social media, il profilo sei tu, sei la persona, quindi per noi anche è anche importantissimo far parlare direttamente l'artista. Allo stesso tempo va guidato, perché lui fa il cantante, il compositore, e noi invece siamo degli, diciamo, dei tecnici della rete. Quindi strutturato anche... è un piano di comunicazione assolutamente digitale. Sì, lo guidiamo. aiutiamo, siamo, gli stiamo a fianco e gli diamo dei suggerimenti che poi la persona sviluppa. Ti ho detto che devo andare a ripetizioni da, da Cristiana. Tu devi, tu vabbè, devi. Poi ci mettiamo d'accordo. Allora, parlavamo di Prince, che non utilizza i social media, però continua a chiudersi in studio di registrazione e a sfornare grande musica, continua a frequentare talenti e belle ragazze, e fra queste anche questo talento meraviglioso, Judith Hill. Il brano è Wild Tonight. Soundcheck, il suono della musica. Il suono di Killiam Shakespeare, che troverete sul sito di Rope Dope Records, la partecipazione di Noel Scales in un brano dal titolo I'm Down. Qui al Soundcheck Radio 24, ancora pochi minuti a nostra disposizione, poi arriverà l'informazione delle 21. Mi sono molto divertito, ho appreso tantissime cose interessanti dalla nostra Cristiana Piraino, che utilizza i social media per la sua attività di social media manager, naturalmente per promuovere l'intrattenimento nella nostra capitale, ma anche per promuovere l'arte e il talento di giovani artisti in modo particolare. Lavori anche per grandi eventi, ci incontriamo molto spesso. Questa sera non ho problemi perché saprei dove andare a Roma, visto che Cristiana sa tutto di tutti, ed è questo quello che fai sul tuo sito. Scusami, potresti ridare l'indirizzo del sito? Certo, si chiama www.romalive.biz. Quindi c'è molto da vedere e da sentire questa sera a Roma? Sì, sicuramente. Andate a vedere nella pagina dei locali e troverete un po' tutti gli elenchi a seconda anche dei gusti. Bene, allora vogliamo dare gli ultimi consigli ai nostri giovani talenti per promuovere la loro arte, lo ripeto, prima di metterla da parte? Certamente. Allora, il consiglio numero uno, che è un po' è qualcosa che ho detto. Prendi nota, Silvia. Va bene. Beh, ma Silvia, devo dire che è una Silvia user forte. Molto grazie, avanzata. Grazie. È molto brava. Insomma, prendete esempio da Silvia Barba, questo è il primo consiglio che posso dare. Dovete esserci, essere presenti, questo è seguire il vostro lavoro, perché quello è uno strumento di comunicazione, soprattutto per i giovanissimi che non hanno quasi mai a disposizione un ufficio stampa, ma che devono un po' fare da soli. Chiedete consiglio, insomma, io sono sempre su Facebook e sono sempre pronta a dare consigli, soprattutto ai giovani emergenti, perché mi fa veramente molto piacere. Allora, due consigli veloci. Prima di tutto sulla comunicazione, quindi quando bisogna comunicare dei dati o un appuntamento, pochi caratteri, due righe. Pochi caratteri, dove, quando, ora e possibilmente un link per dare maggiori informazioni. Comunque usate le belle immagini, perché le immagini parlano, quindi cercate di, se la locandina che ha fatto il locale dove non vi soddisfa, non la mettete. Poi ho preso nota, lei ha detto mai dire bugie, vero? Mai dire bugie. Sinceri, certo, ecco, la sincerità come e nella vita, ragazzi. Apparire in fotografia sempre naturali. Sì, ovviamente, anche se la foto è meno bella di quello che è, però è piacevole vedere anche la naturalezza delle immagini e dell'artista. E tu dell'artista. Hai già postato le nostre immagini? Io sto scattando e sto postando, quindi dove? Su Twitter, sulla nostra pagina Twitter, che si chiama Soundcheck R Grande 24, sulla nostra pagina Facebook, e poi voglio dire, faremo un account Instagram, Gegè Telesforo. Io ti preannuncio questa cosa. So che tu non sei d'accordo, ma faremo. Io ce l'ho, me l'ha fatto mia figlia, solo che non lo utilizzo. Anzi, ne ho due perché non ricordavo la password del primo. Ho aperto un altro, quindi non ci capisco più nulla. Li posso cancellare? Sì, sì. E riaprirli? Sì. Vabbè, adesso mi fate vedere, perdiamo un po' di tempo. Telesforo, prima ti mancano di le andare a mangiare qualcosa, siete miei ospiti. Allora, da Killiam Shakespeare chiudiamo. Ecco, questa è una band che avrebbe bisogno del tuo supporto. Fans Low Ride da New York con furore, la voce di Moses Patro e Joy Dragland per questa versione di I Shot the Sheriff. A tutti voi, buona serata. Noi ci risentiamo domani, vero? Domani, domenica, certo, c'è la puntata jazz, quella che piace tanto a te. E Cristiana, grazie tantissimo. Grazie a voi, grazie veramente, Gegè, grazie Silvia. Ciao!